Mezzanotte 30 minuti 40 secondi, in questo momento su Rai Stereo Notte, tre reti in FM stereo della Rai a vostra disposizione. A vostra disposizione per trascorrere insieme una nottata che va in onda sino alle 5 e tre quarti. Dalle 5 e tre quarti in poi non siamo più responsabili di quello che accade. Neanche a voi, ovviamente, anche se forse non lo saremmo ugualmente. In effetti il potere della radio è tanto, ma non arriva così lontano. Un saluto a tutte le persone che sono all'ascolto da parte di Alessandro Mannozzi, che sarà con voi sino all'1:30, e direi che sarebbe il caso di dar seguito a un invito che mi è arrivato, mi è stato recapitato questo pomeriggio a casa. Questa sera si inaugura, non so bene dove, non so bene come, un negozio di chitarre, ed è il negozio di chitarre di Jeff Beck. Jeff Beck Guitar Shop. Nuovo album. Cabs. You're a strat cat. Patch in. Dangerous distortion. Serious sustain. Slinky, super slinky. Boomers, double ball ends. It'll phase, it'll flange, it'll fuzz. It's fast, it's flexible. Just feel those frets. A simulated comb filter for stereoizing a mono source. It's got a scaled down strat style body with the feel of a Les Paul. Deep cutaways, no pickguard, and a couple of horn buckers. Full shred. Stiff neck, brass nut, and an ebony fingerboard. Balls deluxe. E se vi capiterà di entrare in questo negozio di chitarre, dietro il bancone con un sorriso assai accattivante troverete Jeff Beck, Terry Bozzio e Tony Hymans. Jeff Beck's Guitar Shop era il brano che dava il titolo all'album. Piacevolissimo Robert Plant, nuovo album. Big Love. Manic Nirvana, un album che sembra costruito apposta per sfruttare appieno tutte le qualità che Robert Plant indubbiamente possiede. Questo era un pezzo intitolato Big Love. Continuiamo sullo stesso ritmo, loro si chiamano Died Pretty. si intitolava Sight Unseen, un brano tratto dall'ultimo album dei Dead Pretty. Loro si chiamano The Who. Why should I care? Why should I care? Thank you. Why should I care? Why should I care? Il macchinario degli U è sempre oliato a perfezione, tranne qualche piccola traccia di lifting qua e là, l'effetto sembra essere comunque raggiunto. Era un brano tratto dal loro ultimo album, triplo dal vivo, intitolato Joined Together, registrato lo scorso anno durante la tournée negli Stati Uniti, un pezzo che si intitolava 5-15. Up to one thing binds us still, and that's a chain no one can see, to which you hold a key. Here's the lock, don't hold back. The other day I found my wedding ring, I clean forgot that I'd lost that thing. The hurt's here, the good's gone. I Don't Know Why You Keep Me On, un brano tratto dal nuovo album di Nick Lowe, un personaggio che ha sempre agito nell'ombra ed ha sempre agito bene. La guerra è finita? The Kinks, ultimo album. Soldiers talk about the battle fought to build a better world for me and you. They sacrifice their lives to me. Come true. Now they're forgotten men, remembered by so few. But the war is over, and the fighting ended many years ago. The war is over, the battle's won, but what is there to show? Side by side they march together, children could be free to build a better world, a new society. All classes unified to live in harmony. Now the war is over, so let's forget and leave the past alone. we're going home to live just like before. Arm in arm we sang our patriotic songs of love and sentiment. Tears of joy to hide the sorrow in tomorrow till we meet again. With a new world to build, we'll say our feet is in. What did they silent grave, the unknown soldier can't be saved. The war is over. The war is over. It's time for all the soldiers to go home. The war. Is farther than I can see. Put me out of my misery. If I could keep it shut, I wouldn't be in this rut. Less chance in a laboratory rat. Oh no, I'd never do that. You say you do, but you don't. You think I will. I know I. Of your time, I haven't got the tact. I live above my means, in fact. Oh no, I'd never do that. I'd never do that. Never do that. Erano i Pretenders di Chrissy Hynde, l'ultimo album Packed si intitolava Never Do That. Dal vivo The Squeeze. L'invito a una certa Annie a prendere in mano una pistola, niente meno. Annie, get your gun, sono The Squeeze. She was so not so tuned. She wants to. E finalmente un album dal vivo per gli Squeeze. Questo era un brano che si intitolava Annie, Get Your Gun. Don't make me speak in a new language, just let me tell you the way that I feel. E magari qualche ascoltatore meno smaliziato avrà potuto pensare che il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare appartenga alla discografia di Todd Rundgren. In realtà non è così, perché questo gruppo si chiama The Pursuit of Happiness, è arrivato al secondo album, e questo era un brano intitolato New Language. Loro vengono da Toronto in Canada, ma ovviamente sono prodotti da Todd Rundgren, che questo album lo ha, direi, realizzato per quel che riguarda tutta la produzione e il lavoro di studio. Ascoltiamo un altro pezzo da questo secondo album dei Pursuit of Happiness, che in effetti a Todd Rundgren sono molto affini per tante tante cose. Shave Your Legs, un invito alla depilazione. I won't come on track. had that Camarillo Brillo gleaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of these short forests and every newt in Idaho and every cricket on without a comma. That she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet, and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray-green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. I couldn't come in right then. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. She had a snake for a pet and an amulet, and she was bleeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. Actually, that was very good. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past a fuming incense stencher to where she hung her castanet. She said she was a magic mama and she could throw a mean tyro and carried on without a comma. That she was someone I should know. Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho or is that a Sears poncho? No fooling. E dopo una canzone che parlava di un lui che chiede a una lei di tagliarsi i peli delle gambe perché si intitolava Shave Your Legs, erano The Pursuit of Happiness, mi sembrava il caso di mandare in onda un pezzo di Frank Zappa da uno dei suoi album più famosi intitolato Overnight Sensation. Questa era una canzone che molte persone conoscono e che soprattutto quando uscì molte persone ascoltavano sul loro giradischi a casa. Si intitolava Camarillo Brillo. Adesso c'è un signore che sta tutte le sere col naso per aria a cercare dischi volanti. Il signore che passa tutte le notti attaccato al suo telescopio si chiama Adrian Ballou. Questo è il suo ultimo album come solista intitolato Young Lions. I suoi giovani leoni in questa Looking for a UFO, un album in cui in due brani compare anche David Bowie. E finalmente siamo arrivati in Italia, loro si chiamano Litfiba, questa è Tex. Erano i Litfiba, un pezzo che si intitolava Tex. Ed ora siamo ritornati ad un album che abbiamo già ascoltato nel corso di questi 60 minuti quasi che abbiamo trascorso insieme. L'amore è una lama tagliente che taglia, taglia moltissimo. You Better You Bet erano gli Who, registrati nel corso della loro ultima tournée americana del 1989, raccolta in un album che hanno voluto intitolare Joined Together, un album che in realtà è un cofanetto triplo dal vivo. 1:29 minuti 30 secondi in questo momento qui a Rai Stereo Notte su tre reti in FM stereo. È il momento di chiudere qui il primo spazio musicale del programma, che come sapete è in diretta e che come sapete altrettanto tanto bene prosegue fino alle 5:45 del mattino, e poi c'è il giornale dall'Italia con le ultime notizie. Tra pochi minuti ascolterete Stefano Mannucci. Per quel che riguarda la mia voce, la risentirete domani mattina, direi alle 4:30 fino alle 5:45 con Alessandro Mannozzi. Invece adesso è il momento di dare la linea alla nostra redazione giornalistica di Via del Babuino per le ultime notizie, dove troviamo Giorgio Cirilli. E da Via del Babuino grazie per la linea, grazie ad Alessandro Mannozzi. E un saluto a tutti gli ascoltatori di questo nostro primo intervento di questa notte. Apriamo questo notiziario con gli avvenimenti che si stanno susseguendo in Romania. Notizie drammatiche giungono infatti da Bucarest, dove gli scontri tra dimostranti antigovernativi e forze dell'ordine si sono venuti progressivamente aggravando. Almeno 4 persone, secondo le ultime informazioni, sarebbero rimaste uccise e decine ferite dal fuoco aperto da militari appostati nella vecchia sede della Securitate, la famigerata polizia segreta di Ceausescu. Dopo lo sgombero degli studenti effettuato all'alba di ieri in piazza dell'università dalla polizia e gli scontri susseguitisi nel corso della giornata, la situazione è diventata incandescente ieri sera. I dimostranti anticomunisti, dopo aver attaccato la sede del comando di polizia dandola parzialmente alle fiamme, hanno invaso la sede della Securitate e la sede della televisione, occupando uno degli studi principali. Da quello che si sa, l'ordine non è ancora tornato a Bucarest. Vedremo nelle prossime ore come evolve questa situazione. Veniamo ora alle notizie da casa nostra, dall'interno. È stata approvata in via definitiva dal Senato la nuova legge sulla droga. A favore hanno votato i partiti della maggioranza e il Movimento Sociale, mentre i partiti dell'opposizione hanno abbandonato l'aula al momento del voto. La nuova normativa stabilisce in sostanza l'illecità del consumo di stupefacenti e lo punisce con sanzioni di natura amministrativa e giudiziaria. Il consumatore abituale che accetti di sottoporsi a terapie può comunque alleggerire la pena. È prevista tra l'altro la sospensione della patente auto, il ritiro del passaporto, del permesso di soggiorno e il sequestro dell'auto stessa. Chiudiamo con le notizie dagli stadi, parliamo dei mondiali di calcio. L'Argentina ha sconfitto ieri sera a Napoli l'Unione Sovietica per 2-0. Le reti sono state segnate da Troglio al 27esimo, da Buruciaga al 79esimo. La classifica del girone B vede ora appaiati a 2 punti Argentina, Romania e Camerun. L'Unione Sovietica invece ha 0 punti. E con questa notizia è tutto da Via del Babuino. Grazie per la ascolti. A risentirci con altre notizie, con eventuali aggiornamenti alle 3, come al solito, come ogni notte. Per ora la linea torna alla musica, musica che sarà gestita per questo secondo spazio di Rai Stereo Notte, da adesso quindi fino appunto alle 3, da Stefano Mannucci, a cui lascio la parola con l'augurio di buon lavoro. Rai Stereo Notte.